10 Brecco 10 Sardegna Nord, città di Sassari chiama. Attenzione Brecco canale 10, Brecco canale 10, Nord Sardegna chiama. Fabio mi ascolti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, hola. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora Antone. Oh, ciao Carlo. FM, c'era uno siciliano che mi arrivava a fondo scala qua. Figurati. E beh, oggi c'è preparazione, perché c'è un caso da calentare, cazzo. C'ho 37 gradi al bar alle 2, che è successo a dare una mano a mia sorella. Aspetta, vedi una cosa in garage. Però sono andato a bermi la birra, cazzo. In 5 minuti si è scaldata. Non me lo dire, io stamattina stavo imbiancando, ma ero a Bonorra. Praticamente all'una ero già sciolto, perché ero fuori in un terrazzino, capito? Stavo dando una mano di bianco, ma a un certo punto ha girato il sole e io dico che c'erano 38 gradi, 40 gradi. È arrivato alle 2 un picco di 38, 30, quasi 40 eravamo, 39 qualche cosa era. Dopodiché è cominciato il sorvento, mi corpo, meno male è sceso, adesso meno male è calato un pochettino, quindi se no guai. Infatti quando è così non conviene neanche stare in giro, conviene stare a casa, all'ombra, capito? O stai al mare, in acqua, capito? Allora va bene, perché anche a prendere il sole e poi ti arrostisci, ti brucia e stai male. Ce la faccio a scendere al mare alle 2, così mi piglio l'isolazione, a parte ci rimango secco, non saranno. Se può pigliare il culo, se può prendere. Oggi non sono andato ad andare al mare per niente, manco mi forse alle 8 e mezzo di sera, alle 9 si può andare al mare, ti fai il bagno e poi trovi un, come si chiama, e fai il maialetto. E niente, cosa mi racconti Antone? Io sono ancora in alto mare per quella radio, perché ho ordinato i due transistor, però tieni presente che arrivano dagli Stati Uniti tramite eBay, non so quanto tempo impiegano. C'è scritto tempo di consegna primi di agosto, però secondo me già arrivano prima, ma li ho ordinati da fine maggio, fatti il conto. Poi costano due citti, capito? Quindi sarà posta ordinaria e spero che mi arrivino prima. Che tanto, primi di agosto, sono due mesi che sta per arrivare dagli Stati Uniti. Arriva meglio, prima il cazzo che ha armato in Ucraina. Lo so, però purtroppo su eBay è così, perché quelli originali, lui mi ha detto che ci vogliono quelli e di quel tipo che mi ha indicato lui, perché ne ho procurato degli altri, me li ha regalati Giulio, capito, che sono originali della Mitsubishi, però diciamo sono, non vanno bene per quella radio, perché gli ho mandato le foto e mi hanno detto no, mi devi procurare quelli che ti ho mandato io e li voglio quelli lì, Mitsubishi originali, altrimenti la radio non esce. Ah vabbè, se perché sto qui di là di qui, cosa vuoi dire? L'importante è che si sistemi la radio bene. L'altro giorno c'era una 130 euro, un po' plus c'era, uguale dentro a quello che c'avevi tu, 130 euro, funzionante. Sì, sì, già li ho visti anch'io, ce n'erano anche su Subito diversi, ce n'era uno 150, ce n'erano diversi altri, ce n'era uno da 250, capito, però ormai che ce l'ho in ballo si aggiusta a quello e poi vediamo, dai, comunque già vado con questa di radio, già pompa che è questa. Sempre pompando state. Il nome Natali, come va? Sì, stavo studiando, mi sono stufato e sento tutto. Hai fatto bene, ogni tanto una pausa ci vuole. E infatti, ieri ero al corso, quindi. Oggi è calda, eh? C'è caldo, sì. Infatti ho piazzato il ventilatore a pedana che abbiamo qua, l'ho fatto funzionare. Io ce li ho due in garage, uno a pedana e uno invece da mettere su un mobile, capito, però me li porto su perché insomma solitamente lo facevo intorno a luglio, agosto, quel lavoro lì, non ai primi di giugno, capito. Li porterò su anch'io perché sembra così, muove un po' l'aria, capite, ti rinfresca. E oggi c'è caldo, ma lo stavo dicendo ad Antonello, oggi ero a Bonorva, stavo imbiancando una parete grande fuori nel terrazzo, come ha girato il sole, c'era da sciogliersi, l'acqua che ho fatto in sudore, io dico che ho perso almeno 2 chili. Io lo so, no, mamma mia, roba di caldo. Comunque l'ho finita, adesso quando ci rivado la prossima settimana mi devo sistemare un cassettone di una doppia finestra, ci devo mettere i tappi nuovi perché quelli che ci sono a furia di togli, metti con i chiodi si sono tutti rovinati, allora ho preso la misura, vado da Bricoman, mi faccio tagliare il legno e glieli faccio nuovi, poi li pitturo con quella pittura d'acqua, capito? Ne do una mano leggera, bianco, e devo cambiare anche le serrande, e poi c'ho questo salone da tingere, però è quasi vuoto, capito? Quindi dovrei fare veloce, dopodiché ho tinto tutta la casa, mi rimangono solo i corridoi, ma quelli me li faccio piano piano, ogni volta che vado ne faccio un pezzettino. Sì, infatti. Quelli sono dentro casa, per cui neanche sudo, perché dentro casa già c'è fresco, capito? Mi devo prendere un po' di tinta bianca per fare i tinterni e niente, così piano piano a quando a settembre ho finito tutto. E sono, mi subisci quei finali, stavi dicendo. Sì, esatto, perché ho parlato con Albino e siccome me ne hanno anche regalato Giulio, originali Mitsubishi, però hanno una diversa resistenza, capito? E lui ha detto che invece vuole quelli che mi ha scritto lui, che sono quella sigla lì, però hanno 45 ampere, qualcosa del genere, c'è tutta una sigla, già ti mando la foto comunque. Infatti lui mi ha mandato la foto da dove ordinarli ed era su eBay, però arrivano dagli Stati Uniti, capito? Non ce n'è qua, non vuoi. No, perché se la vuoi riparare bene devi mettere i pezzi originali, capito? Lui mi ha detto così, ho detto tanto fretta non ne ho, quando arrivano te li faccio avere o glieli invio per posta cedere che in un paio di giorni gli arrivano, oppure quando vado a Bonorra ci faccio un salto e glieli avvicino, capito? E infatti tratta di avere pazienza. Antone, sciogliendoti stai al caldo? No, ancora no, stamattina sì, però la mattina proprio mi stavo sciogliendo, adesso sono in camera mia solo, con la finestra chiusa perché c'è un vento caldo allucinante, eccetera. Mia moglie stamattina prima che uscissimo ha steso la roba, dice sarà asciutta la roba, l'ho toccata, è secca, ma sai cosa vuol dire? Sembra entrata dentro un forno croccante. E anche io qua ne ho tolto la roba da stesa ed era così, Carlo, capito? Adesso per stirarla la devi addirittura umidificare, se no non ci stira quella. Però a giugno così caldo del genere io non me ne ricordo, caldo del genere sì, ma a luglio punte del genere anche ad agosto le ha fatte, però solitamente ai primi di giugno era più fresco, capito? Mi faceva respirare. Io pensavo che piovesse, ieri ho visto che c'era caldo, però c'era il cielo tutto nuvoloso, invece non ha piovuto. So, anche intorno alle 2 siamo passati a Giave da mia suocera, no, però è scesa solo mia moglie, io sono rimasto in macchina, si è alzato questo vento e il cielo era grigio, capito, una specie di cappa c'era, non si capiva se erano nuvole, se era foschia, ma è durato un 10 minuti questo vento e poi è calato e ha ripreso il caldo. Lì sulla piana di Giave c'erano 38 gradi, 39 gradi anche in certi punti, verso Campomela invece è scesa a 37-38. Figurati, di là c'è più caldo. Acceso, poi quando ho finito la bella sono uscito fuori, ma non te lo dico nulla, non sono fatta nessuna cosa, non sono fatta. Ma in questi giorni c'è una propagazione in FM che disturba, arrivano segnali a bomba, Santiago 9 pure. Ma se c'era gente in banda laterale stamattina qua su questo canale ed erano tedeschi. Perché c'è propagazione verso nord, infatti ieri sentivo, ieri avanti ieri sentiva Francia, Olanda, Germania, insomma tutti quei posti lì del nord Europa, capito? Evidentemente verso quelle zone. E io nei canali alti non ci posso andare perché c'ho questo qui che i canali ce li ha chiusi praticamente perché è omologato, no? E sui canali alti non ci va, c'è solo 40 canali. Ho capito, no, questo già c'ha i 40, poi se schiaccio apre tutto. E questo non posso schiacciare in via. Perché l'altro non stai più usando? Cosa? L'altro non stai più usando la tariffa. Non c'ho più niente, mi ho venduto tutto. Non lo vedi che sono nel mirino? Cazzo, mi hanno mandato anche i vigili del fuoco qua, perché l'antenna oscillava troppo. Dimmi tu. Ma ho venduto tutto, non voglio più sapere nulla, mi c'ho questo e buco. Ma tu sei una cosa allucinante, ti compri le cose, installi l'antenna, fai di tutto per installarla, cazzo, e poi siccome io sai che quell'antenna uscì da un bel cazzo, è come la B27L, ti chiamano i pompieri perché c'è una paura se cadeva in terra, cazzo. E mi ha detto, siccome c'era il palo che non era assicurato ancora, è logico che oscillava, no? Adesso già è assicurato, ho anche eliminato il TVI da quello che disturbavo, sono andato e gli ho aggiustato l'antenna e non disturbo più, però verranno a controllarmi tranquillamente perché mi avranno già denunciato. Torna. Non credo, là, se hai sistemato l'antenna non credo di niente, l'avete già saputo a quest'ora. Ti avrebbero chiamato, ti avrebbero detto, caro l'altarino, guarda, io ti ho denunciato per questo motivo qua. Hai capito? Poi se poi ti hanno avvisato che l'antenna oscillava parecchio, non è che ti hanno fatto per male, ti hanno fatto per bene. Perché non è successa la stessa cosa che è successa a me. Quando ho fatto il palo telescopico con Gianni Bravo 2, a DBC compro il palo, 8 metri il palo, piatto la 1,5, meno male mi è venuto in mente di sollevarla di 6 metri, 8 metri, ho sollevato solamente di 3. Arriva questa specie di bufera, prima le butta giù la terra di Giacomo Fantomas, la diamo completamente distrutta. Poi mi guardavo la mia, ha giocato mi la mi, ha giocato, speriamo che dura stanotte. Ovviamente mi sono stato verso le 9:30, mi sono trovato il palo piegato e radiale, meno male, erano distratte di 20 cm dal tetto. E l'antenna l'ho salvata. Infatti gli ho fatto la fotografia e ho detto, bello il palo mi ha dato, ho detto grazie. Sì, ma questo qua doveva durare almeno 120 km orari, ma proprio da 120 km orari, ma non vedi che condizioni è con questa antenna. E tu me l'hai più detto, mi ha detto del genere, non me l'ha detto. Non te ne compro più, ho detto. E spendo, ho detto, 120 euro, cazzo di palo, ma tu sei tutto scemo, ho detto. Mi prendo un palo d'acqua, infatti avevo pensato un palo a 6 metri d'acqua, l'avevo sollevato con le corde, tanto tempo fa, e avevo messo 6 metri di palo. Dopodiché, siccome ho visto che c'era troppo casino, tra vento, temporale, roba del genere, avevo troppa paura, perché fischiava, il palo fischiava, sembrava un treno, sembrava la Mantova. Allora ho preso, l'ho buttata giù e ho tagliato il palo a metà, a 3 metri. E così l'avevo lasciato, detto, almeno ho detto tranquillo, nessuno mi girava le balle, quando c'era l'inquilina, che abitava a centro storico. Diciamo, se mettete il palo, già te lo ricordo. Come hanno fatto staccare tutto, dovevano fare il tetto, eccetera, eccetera. E il palo in pratica me l'avevano buttato via. Allora ho preso un palo da 3 metri e ci ho messo quello. Già ho capito, ma qui c'è gente cattiva, capito. Sono andati a dire che avevo gli armadi pieni di baracchini, che ce li avevo nascosti nell'armadio. Dice gente che è venuta qua, per quello là non entra più nessuno qua. A parte che non ne ho mai avuto di baracchini dentro gli armadi. Quando ci ho avuto qualche baracchino già era bene in vita qua, non ti preoccupare. Mi hanno anche diffamato, non solo l'altro. C'è gente cattiva. E allora, da oggi non c'entra più nessuno qua. Assolutamente. A parte che ho solo questo adesso. Mi hanno fatto vendere la roba presa con il sudore della fronte, me l'hanno fatta vendere proprio perché sono nel mirino. Ma se scopro chi è, sono cazzi. Ma non ti lasciamo in pace, Natali. Impegnati per quello tu. Se riesci a fare quello che stai facendo, poi ti mettono, come si dice, a buon orva, batto spane e sabildula, quattro panni nella bisaccia, mi per non dire la faccia in culo. E vabbè, già ci siamo capiti lo stesso. Non c'è problema. No, ho dovuto dare tutto quanto. Dimmi tu. Un peccato, ma vabbè, lasciamo perdere, va. Cazzo, c'avevo i baracchini nascosti nell'armadio, dice non so quanti baracchini ci avevo io. Beh, ma te li immagini, la gente. Gente che non si fa i cavoli suoi. Comunque l'antenna l'hai assicurata, così, nel senso che adesso non oscilla più. Anche quello del terzo piano me l'ha legata, figurati, è assicurata, primo, secondo e terzo piano, è assicurata adesso, no? Però dice che oscillava troppo quando non era assicurata al terzo piano, perché c'era il palo più fine, no? E oscillava in quel senso lì, ma poco poco. Ah vabbè, adesso già è legato. Cazzo, me ne sono domenica, mi sono venuti i vigili del fuoco qua. Niente, quelli sono andati, hanno visto e cosa hanno fatto, nuda, se ne sono tornati via. Io manco sceso ci sono, mi sono affacciato alla finestra e mi ha detto la vogliamo assicurare questa antenna, certo che la assicuro, non la lascio così, certo, ma hanno preso nome e cognome e se ne sono andati. Infatti, magari hanno visto che comunque era, diciamo, sul palo e avranno visto che non oscillava, magari non c'era neanche più il vento, tutt'al più ci metti due tiranti e buonanotte. È tutto fatto, è già tutto fatto, caro. Ho anche eliminato il TV da quel signore vecchio che aveva l'antenna tutta incasinata, però dice che io non dovevo parlare, capito? Meno male che la figlia mi ha fatto entrare, gli ho messo mano, cazzo, gliel'ho aggiustata. E adesso TVI non ne faccio più, perché mi dava fastidio disturbare quest'uomo e c'ha 95 anni, capito? Ho capito, vabbè, dai. Speriamo bene adesso che gli passi, quando si calma questa, chiamiamola così, piccola tempesta, poi pian piano, Nathalie, ti risistemi tutto. No, se prendo la patente mi metto la roba che devo mettermi, però qua parlo solo con questo, non ci parlo con gli altri, se no dicono che vado furibando, capito? Sono capace di dire quello. Iaia, insomma, pazienza ci vuole. E allora, la patente me la prendo solo ed esclusivamente per poter detenere quel cazzo che mi pare piace. Poi se c'entro o meno, in banda radio materiale saranno affari miei. A parte che poi in quelle bande lì neanche disturbi, capito? Quindi lì esci anche con pochi watt e arrivi lontano volendo, capito? Senza disturbare. No, puoi uscire fino a 500 watt in quelle frequenze lì. Sì, quello sì, però anche con pochi in UHF, se vai con 10 watt, a voglia, per collegamenti a breve distanza ce n'è per i porci. Sì, già lo so, infatti uscirò per ogni frequenza all'apparato suo, voglio fare le cose in regola perché ne ho le scatole piene di essere perseguitato, sono una vita che mi stanno perseguitando, da quando sono qui mi stanno perseguitando, capite? Quando ero in campagna ne facevo di tutti i colori, gatta, e non mi rompeva le scatole nessuno, invece qua non c'è Cristo, mi hanno messo nel mirino e buco. Purtroppo è così, quando vivi vicino o in condominio eccetera, io ho la fortuna che non rompe le scatole nessuno qua, disturbi diciamo non ne ho dato mai a nessuno di TVA e cose del genere, eppure le antenne ce le ho sotto mi dove la mia. Va tutto tranquillo, io se ne voglio mettere un'altra ne metto un'altra, non chiedo a nessuno, prendo e metto, mi sto zitto, capito? Faccio tutto organizzato a rasura, la mattina presto o la sera tardi, quando tutti riposano, capito? Vado, metto, nessuno se ne accorge. Ma poi non disturba quella lì che hai tu, è come la mia che non disturba, poi il digitale disturbi ancora meno, adesso che si sono spostati di frequenza. Ma che mi rompano le scatole qua. Ho fatto delle prove qua, ho messo in AM, ho messo in FM e anche in banda laterale e ho provato con 4 watt, ho provato con 10, ho provato con 50, con 100, il televisore acceso, cambiavo canali, trasmettevo, nulla. Ho detto, siccome l'antenna è centralizzata, quindi se non disturba a me che sono al terzo piano, non disturbo nemmeno agli altri, capito? No, a me non mi disturbavo, disturbavo a quello che c'era attaccato sopra l'antenna mia, nello stesso palo, no? Però a me non mi disturbavo, capito? Era l'antenna di quello là che l'ha messa male, e così quella di quel signore vecchio che l'ha messa male. Se mi è rimasto il capo dell'alimentatore in mano, tutti i morsetti mollati c'erano, amplificatore a manetta c'era, che non ce ne manco bisogno perché è a zero e si vede lo stesso la televisione. Dimmi tu, io ho sistemato bene i cavi, tutto quanto, le fascette, l'alimentatore lo stesso, tutto bello stretto, ho fatto le prove, non lo disturbo assolutamente. Quando l'antenna è a posto non li disturbi, e quando l'antenna è messa male che li disturbi, ma la colpa è di loro, non è nostra. Infatti, vabbè, comunque, io facendo quattro chiacchiere, qua la gente dorme, si fa altre cose, ero in cucina, ho detto esci che sono entrato a bere un po' d'acqua e ho sentito Antonello. Vai Antone. Ehi, mi sono stato perché mia nipote è uscita, quindi c'ho campo libero in cameretta. Qui c'ho di tutto ciò. C'è tutta la roba che sopra il tavolo, poi c'è un coniglio. Dopodiché c'è un cazzo stereo, cazzo non solo per cazzo metterlo, quindi c'è una camera piena di roba. C'è qua mia nipote dorme qui, quindi si è trovata la roba sua, e quindi quando c'è lei cosa entro? A un certo punto mi viene fuori di entrare. Rimango fuori dalla camera e boh. Io guardo il televisore di salone e basta. Se niente, qui è così. Dopodiché quando tornerà a casa, tornerà a fare a baracchino 24 ore 24 come prima, divertirmi. Adesso dove seriamente, quando c'è tempo entra, se no pazienza. Io intorno alle 2 ero a Giaffre, ho provato ad accendere in macchina ed ero sul 10, ho provato a far chiamata ma non mi è sembrato per un 5 minuti chiacchierare Marco, la voce di Marco, forse che chiacchierà con qualcuno, però poi hanno chiuso e forse non arrivavo eccetera, ma avevo l'antenna anche quella grande sulla base magnetica e là a Giaffre sono intorno ai 580 metri davvero, quindi sentivo segnali forti da altre parti, però a Sassari su 10 non c'era nessuno. E beh, purtroppo è così, secondo che dovrà sì, che discorso è quello lì, quindi la tarita non torna in chiappetta a casa, neanche per trovare l'antenna a casa. Siccome mi lasciava la via 27 anni, gira, mi lasciava quella che c'avevi prima e ti avessi messo un attimino che fuori dalla finestra. E metterti quella di spendere 120 euro e non ti verbale come prima, a me me ne sarebbe scesa la mazza, come minimo, cazzo, a un certo punto. E quando hanno visto, cazzo, quella disturba di più, hanno detto, come hanno visto l'antenna mia, quella nuova, ma dimmi tu. Tutti allarmati si sono, come mi hanno visto stavo piazzando l'altra antenna. Me ne è sceso il capo, gatta, che era tutto nero. Ho dovuto cambiare anche il capo, che era tutto nero, era Antone. Il TL, me ne è uscita la ghiera, quella che ha vita, era verde. Si è rotta la sbarbatura e me ne è uscita la ghiera del TL. Ho dovuto buttare via quel capo e ho messo quello nuovo. Meno male già ce l'avevo, quello buono. Anche la mia era così, infatti mi sono di 513. Quella mia 27 anni è molto la fama, te la sarai conservata quella mia, almeno te la sistemi un pochettino. E adesso è più alta di quella che era prima, è più alta l'antenna, ricevo meglio, prima c'avevo sempre 7 fisso di QRM, quindi quelli che non arrivavano almeno Santiago 7 non li sentivo io, no, adesso è tutta un altro pianeta. Credo, poi vicini adesso perché sai cos'è la curiosità, hanno visto che è cambiato a dire questa disturba, poi già gli passa, si abitua, passa un mese, 2 mesi, 3 mesi, alla fine non ti rompono più le scatole, tanto la gente è così poi. E se no se mi vogliono dire che disturbavo ieri, io dico ma stavolta li faccio lo scandalo, perché ieri sera non c'ero neanche io, ero al corso. Ma no, non credo che disturbi, col digitale terrestre penso che siano frequenze completamente distanti, per cui è diverse, non credo che disturba. E chi ha l'antenna a posto non lo disturbi, ma quelli che hanno l'antenna messa male li disturbi lo stesso. Se ne ho aggiustato altre 2 televisioni qua, di 2 persone diverse, che avevano attaccato solo il positivo del cavo, la massa non era la loro e gliel'ho messa a posto io, perché non sapevano come si doveva attaccare il cavo, chissà che cazzo gli era fatto l'impianto, a 2 signore mi gliel'ho fatto io. E tu? E infatti, io adesso se mi procuro un altro di questi 747 me lo sistemo in macchina, me lo collego direttamente alla batteria, ci metto un pulsantino, capito, così quando sono fuori in macchina attacco qualcosa in più, capito? Ma io non ne avrei comprato neanche, mettiti quello che hai in macchina, a casa non ne hai bisogno. Se mi hanno sentito in casotto con 4 watt che ho qua, questo c'ha 4 watt, mi hanno sentito a Malaga, da tutte le parti. Peccato che non posso andare nei canali in banda laterale, su, perché è chiuso questo, no? Però con 4 watt ti sentono, figurati. Mettitelo in macchina alle 747, te lo nascondi bene. Sì, infatti io faccio così, lo tiro fuori da qua e me lo piazzo in macchina. In effetti forse va meglio così, hai ragione. Qua già passano quelli che ho di VAT. E poi con quel po' di antenna che ti canta, se non ti sentono ci butto tutto. Infatti, cioè va bene così. Adesso, l'altra volta ho sentito Roberto e mi diceva di collegarlo direttamente alla batteria, capito? Poi di metterlo ovviamente all'interno della macchina e i cavi positivo e negativo anche di fargli fare due vie diverse, capito? Perché dice così scaldano di meno, dice meglio che siano distanti uno dall'altro, di mettere il cavo buono, grosso, in maniera tale che non surriscaldi, e poi di mettere un pulsantino per attivarlo, per accenderlo, spegnerlo solo quando serve, capito? E capi da 2,5, vedi? Capito? Due vie diverse fra, lì ha ragione, scalda di meno e tutto. E non modulare col motore spento quando c'è quello attaccato e ti rompe la batteria. E perché magari ciuccia parecchio, capito, te la scarica, quindi solo con macchina accesa, sì, sicuramente succede così, poi la rovina troppo, la sfrutta troppo la batteria spenta. Un amico mio ha crepato le batterie del camion, perché spegneva il camion, lui si metteva a modulare con l'iniera attaccato di quelli grossi, ha crepato le batterie del camion. Figurati. Quelle sono a 24 volte addirittura, secondo te camione costano una barca di soldi, eh? Un articolato era. Cazzo, ti ha detto il padrone, se le bruci torna le batterie le paghi tu, perché quella è colpa del baracchino, il principale lo sapeva, capito che era colpa del baracchino. A chiedo modulava col camion spento, modulava, e giustamente con un lineare da 1200 gli ha crepato le batterie. Già lo credo, con 1200 watt attaccati a motore fermo, le batterie te le butta giù, poi se ci stai in radio modulando, uiaia. E così è, un amico mio era, e ha bruciato le batterie del camion. A un altro addirittura il 1200 non lo sopportava perché c'aveva il cambio elettronico questo, no? E il 1200 gli faceva saltare le marce dell'articolato e allora ha dovuto mettere quello da 750. Infatti, ma questi già sono piccolini, dai, 747 massimo arriva a 100 watt, non di più, ma io quando qualche volta lo uso così che lo attacco, se sono in banda laterale, con 50 watt a voglia arrivi abbastanza lontano. E infatti, a voglia. Metti il fusibile da 20 ampere mia 747 quando metti in macchina quello lì. Gli metti un fusibile sul positivo da 20 ampere. Mi sa che anche qua ce l'ho il fusibile, e se non sbaglio è anche qua, se non è da 20 è qualcosina in meno quello che c'è qua, sempre sul positivo. E mettilo a 20 a 747 e così sei tranquillo. E il cavo da 2,5 mettiglielo, bello grosso. Qua già è tutto scoperto e ho messo quello da 1,5, capito, però è già largo e è tutto dietro il mobile, quindi non credo che surriscaldi più di tanto. Poi lo uso poco, capito, non è che lo attacco giusto se magari qualcuno mi sente un po' male eccetera, allora lo attacco, ma massimo esco con 50 watt, già scalda un pochettino ma non più di tanto. Qualche volta l'ho visto un po' rovente, una volta ci sono rimasto, non mi ero accorto che era acceso, stavo uscendo con 50 in AM, a un certo punto ma appoggio il braccio, cavolo, mi ha bruciato il braccio. E infatti è perché scaldano che ti ho detto di mettere il cavo grosso. capito. Io dentro subito 2 minuti, sto facendo quello, il conteggio di quello che ho fatto lo spirito, 2 minuti. Via, tranquillo Antone, tanto mi facendo 4 chiacchiere qua, rimaniamo anche in un altro po', mi sa, e poi nel caso ci si sente più tardi. E cappa, anda bene Meda, in macchina metti il capo che ti ho detto io, e il fusibile da 20 ampere, e non sbagli, a parte che rende più bene il lineare, perché la corrente gli arriva meglio, no? Quello da 1,5 è troppo fine. Ne ho giù da anche da 4 ne ho, ma già glielo metto quello da 2,5, solo che rosso e nero non ne ho, ma mi sa che me lo prendo perché c'è da Bricoman e sono le matassine quelle piccole, capito? Rosso e nero, e guardo se c'è da 2,5 e me ne prendo 2 rotolini, tanto serve sempre quello. E così fai l'impianto come si deve, gli fai la linea separata per lineare, attaccato direttamente alla batteria, e non sbagli, e rende più bene il lineare pure perché è alimentato meglio. A Cosola, quando è la settimana scorsa, dai, 3-4 giorni fa, lo stesso, stavo andando al lavoro, che avevo il turno di notte, e niente, mi ho provato a accendere in macchina, ero dalle parti di casa tua, andando al lavoro, e mi ha risposto Roberto Quadrato, e praticamente abbiamo chiacchierato, siamo arrivati quasi sino all'aeroporto, lui, io lo sentivo comunque a lui sino all'aeroporto, però lui dopo, diciamo, l'ho sentito sino a Totubella, cioè lui mi sentiva sin lì, poi ha iniziato un po' a perdermi, però con l'antenna più lunga ho visto che, diciamo, andava meglio rispetto all'altra, capito? E quella corta ti perdono subito, lascia quella lunga, tanto se è magnetica la togli come vuoi, no? Sì, no, poi ho trovato, ci sta nel portabagagli, capito, la metto un po' piegata e non gli succede niente, capito, ci sta, perché metto la base magnetica attaccata al click che rimane lì ferma, e poi l'antenna si piega ad arco un pochettino, la metto là e mi chiude perfettamente il portabagagli, ci sta completamente, capito. E anche io faccio così. Se devo fare spesa, lo stesso, ci puoi mettere le buste, eccetera, non gli succede niente perché lì se ne sta proprio sul fondo, capito? Quindi anche se la schiacci leggermente con qualche peso non succede niente, visto che non si deforma né niente. È che devi stare un pochettino attento, se vai nei parcheggi bassi, al supermercato, eccetera, lì ti tocca tutto, allora la devi togliere. E tutto sta a ricordarselo prima, la metti dentro il cofano e buonanotte. E se devi andare a fare la spesa non mi attaccare neanche. Infatti, adesso faccio un po' di... mi hanno regalato delle fragole, le metto sotto il lavandino, gli do una bella sciacquata, le pulisco, limone, appena appena di zucchero, e sono fresche, capito che le ho messe un po' in frigo, e con questo caldo non fa a mangiare niente, capito, giusto la frutta fresca. E infatti... così chiamo a raccolta gli altri, se ne hanno voglia si mangiano un po' di fragole, così le facciamo fuori, perché quelle lì se le metti in frigo durano qualche giorno, ma se le lasci fuori dopo un giorno con questo caldo si fanno tutte molli molli. E infatti con questo caldo è l'occhio, fatele fuori. Ok Natali, ce la risentiamo più tardi allora, che mi mangio qualcosa, già sono in ascolto comunque, dai, faccio un attimo di bianco, 10 minuti, un quarto d'ora, poi nel caso già faccio chiamata se ci sei ancora, dai, se no più tardi, non ci sono problemi. E ciao Carlo, buon tutto là, buon proseguo, alle prossime. Ciao Natali, a dopo. Chucachu. Hola, Coca-Cola. Ci stai raccontando? 269 Whiskey 01 QTH Manchester QSL.